Radio 24. Libera la voglia di fare. Radio 24 presenta Il sabato del villaggio. Liberi consigli per il fine settimana. Buongiorno, ci siamo, sono passate le 15 da pochi secondi a Radio 24 e siamo sempre insieme, come sempre a quest'ora, con il sabato del villaggio, dove il villaggio è il nostro villaggio globale. Questa è la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri, insomma i nostri liberi consigli per il fine settimana. E nella terza ora, dalle 17 alle 18, il nostro consueto appuntamento con RadioTube insieme a Daniele Bellasio per tutta l'attualità della rete e dalla rete. Oggi avremo un sacco di ospiti, io vi faccio solo due nomi, anzi tre. State pronti perché fino alle 18 saranno con noi alcuni ospiti del calibro di Mario Venuti e poi per tutti i ragazzi che adorano gli youtuber abbiamo veramente due numeri uno che sono Matt e Bise. Se avete qualche anno in più non li conoscete ma dovete studiare, quindi rimanete con noi perché dovete conoscere, sono irresistibili, Matt e Bise. Allora, per tenerci compagnia come ogni sabato pomeriggio c'è sempre il mio account di Twitter che è @MartaCagnola, l'hashtag è cancelletto ISDV e poi c'è il numero per i vostri SMS e WhatsApp che è il 349-238-6666. Un breve riepilogo invece di quello che avverrà nella prima ora. Allora, l'appuntamento con le tecnologie. Insieme a Enrico Pagliarini parleremo di luci. Con il gastronauta invece l'argomento sarà la tendenza Michetta. Come sempre tutte le uscite al cinema del fine settimana, ma partiamo subito con la musica. Una storia, una salita, una strada, una matita, un microfono, una stretta con il sangue fra le dita. Che Dio ci maledica, sento le sue impronte di una croce incisa, con l'olio bollente sulla fronte. Un animo bastardo, una cieca convinzione, un rifugio, uno sguardo, una ricerca di attenzione. In bilico fra l'odio profondo e la redenzione, ho scelto la beatitudine dell'eterna dannazione. Ehi, lo sai che ho perso troppo tempo? Chissà se tu l'hai ritrovato. Chi dice marchiato, chi dice macchiato. L'indelebile c'è solo un destino segnato. Cercavi conforto in un uomo contorto, ma il fato beffardo ed il fiato è già corto. Per noi non c'è cura, non c'è medicina. Se poi mi sento solo quando mi sei vicina. Coscienza lava secca, una doccia di sangue freddo. Sono talmente perso che non trovo più me stesso. Nulla accade dal nulla, ne son certo. La mia ambizione ha superato di gran lunga il mio talento. Se potessi cancellare tutto il male non verrei come Assenzio stanotte. Bella Assenzio, quante volte avete sentito questa canzone? Loro, J-Ax e Fedez, vanno fortissimo in questo periodo. Allora vogliamo sapere quali sono i concerti più attesi in questo periodo. Come sempre quando comincia la bella stagione abbiamo voglia, più voglia di uscire del solito e magari la sera andare a vedere un bel concerto. Allora J-Ax e Fedez, insomma, di loro si parla già tantissimo live, però voglio andare a scoprire quali sono gli appuntamenti imperdibili e torno a dare il benvenuto, quindi do il bentornato al sabato del villaggio a una delle nostre amiche, una delle mie preferite. Posso dirlo che è una delle mie preferite? Chiara Di Giambattista, ciao Chiara! Ciao Marta! Allora Chiara, che bello che sei tornata! Poi mi emoziono io se mi dici così. Ma figurati se ti emozioni. Allora, visto che tu non solo sei una super esperta di musica, Chiara la conoscete, fa soprattutto l'autrice televisiva, dobbiamo dirlo, però è un punto di riferimento per noi, non solo proprio per quanto riguarda i consigli musicali, ma è anche attentissima ai live, non solo perché gira l'Italia ma anche l'Europa e il mondo per andare a vedere i concerti imperdibili. Quindi io ne approfitto sempre per chiedere un po' che cosa vale la pena di mettere in agenda, perché poi davvero ormai la musica è fatta in gran parte di eventi live. Chiara, allora, che cosa c'è di imperdibile? Io ho carta e penna, io segno allora, tutto. Dimmi tutto. Allora, guarda, io devo dirti che comincio a scrivere perché l'elenco è lunghissimo e veramente c'è l'imbarazzo della scelta, perché in questo periodo ci sono tantissimi artisti che sono in giro e veramente vale la pena di andarla a vedere tutti. Bisognerebbe andare a vedere un concerto tutte le sere perché sono tutti quanti pazzeschi. Bisognerebbe allora, avere un porcellino pieno, eh? Esatto, un porcellino bello pieno, assolutamente. Mm-hmm. Però, insomma, almeno provate a mantenere i soldi del porcellino per quelli proprio che preferite. Esatto. Però provateci, perché i concerti live sono veramente un'esperienza che vale la pena di vedere, soprattutto se amate particolarmente un artista. Devo dirti la verità, anche se non lo amate, se c'è qualcuno che non vi convince, andatelo a vedere dal vivo. Io spesso lo faccio, se c'è qualcuno che proprio non amo particolarmente, però mi faccio, voglio andare a vedere se invece poi mi conquista, e la maggior parte delle volte ci riescono, perché i concerti sono sempre un'esperienza pazzesca. Effettivamente, abbiamo appena sentito J-Ax e Fedez, loro stanno facendo un tour pazzesco, incredibile, pieno di sold out. Ti dico solo che il 10, l'11, il 13 e il 14 saranno ad Astago e praticamente rimangono una manciata di biglietti. L'8 luglio saranno a Rock in Roma per un grandissimo concerto, ma se andate a cercare un po' di date, loro sono veramente in giro per tutta Italia e loro fanno un concerto pazzesco, sono comunque molto trascinanti. Credo che in qualche data ci sarà ospite anche Neck, vedrai che con qualche piccola incursione, visto con questo duetto, con questo pezzo con J-Ax che ha fatto, secondo me, qualche incursione, secondo me la farà. Capiterà. Poi, un'altra che ha iniziato il suo tour lunghissimo, ieri sera ad Ascoli Piceno, è Fiorella Mannoia. Diciamolo, un po' insieme al nostro rappresentante all'Eurovision delle prossime settimane, che è Gabbani, insomma, è la nostra vincitrice. Insomma, noi le vogliamo molto bene. Possiamo dirlo. Ho visto delle tue belle foto con lei ultimamente, so che hai presentato il suo disco in un po' di occasioni. E questa settimana abbiamo fatto un bellissimo incontro con i ragazzi dell'Università di Roma 3 qui a Roma, e lei ha parlato con i ragazzi che erano curiosi di sapere qualcosa di più, non soltanto su di lei ma anche su come funziona il mondo della musica. Bello, io sono favorevolissima a questi incontri, anzi, così fammi ricordare, domattina alle 8, dopo il giornale radio delle 8 in 140 caratteri, Alessandro Mannarino, perché con Mannarino abbiamo fatto meraviglia. Un incontro all'Università Bicocca questa settimana, quindi bello far incontrare i grandi della musica che hanno qualcosa da dire con i ragazzi dell'università. Assolutamente, quindi Fiorella continuerà con tutta una serie di sold out, date raddoppiate, triplicate a Roma, Firenze, Napoli, Milano. Se guardate il suo calendario fino al 17 settembre, dove ci sarà la data dell'Arena di Verona che metterà fine a questo tour, non ha un giorno libero. A proposito di Alessandro Mannarino, che insomma l'hai nominato, io non posso esimermi, un altro che veramente che vi consiglio di andare a vedere, lui sarà questa sera a Pescara e il 18 aprile torna a Milano al Fabric, e devo dire è stato qui a Roma con due date sold out. Io sono andata a vederlo, ma Alessandro Mannarino lo conosco da tanti anni e ha fatto veramente un disco straordinario. I suoi live sono qualcosa di imperdibile. Lui è trascinante, ha una band di musicisti pazzeschi e i suoi concerti sono un'esperienza. Ha la grande capacità di coinvolgerti, travolgerti con il suo genere musicale, che è veramente qualcosa di magico in alcuni momenti. Andando avanti, ti posso dire che c'è ancora Max Gazzè, che sta portando in giro questo suo esperimento, questo Alchemaia, che è questo concerto che lui chiama sintonico, perché è sinfonico ed elettronico, e sarà sabato al Teatro dell'Opera di Firenze, martedì e mercoledì agli Arcibaldi di Milano. Insomma, diciamo che lui è uno di quelli che ama sperimentare, l'ha sempre fatto in tutta la sua carriera, e anche lui, sono andata ad ascoltarlo qualche giorno fa, ha fatto un incontro sempre con i ragazzi dell'Officina Pasolini, che è un polo culturale, una scuola di arte che si trova qui a Roma, diretta da Tosca, che insomma conosciamo tutti, ed è stato bellissimo perché ha voluto raccontare come sta cercando di mettere tutto quello che ha imparato, perché poi lui è un grande curioso di culture e di religione, di filosofia, ha provato a metterlo tutto in questo concerto, e lo farà con questa Bohemian Symphony Orchestra di Praga, che è un'orchestra prestigiosissima. Altri concerti che mi va di segnalarti, allora Paola Turci. Paola Turci è uscita con intanto ve lo dico, la prossima settimana aspettatela, perché arriva anche lei al Sabato del Villaggio, Paola Turci. Allora, Paola Turci, segno. Turci, fermiamoci un attimo. Paolo Turci ha fatto un disco straordinario, questo Il mio secondo cuore, che è uscito qualche giorno fa, è innanzitutto è l'album italiano questa settimana più venduto, il vinile nella classifica dei vinili è al numero uno, e devo dire ha fatto un disco che a me personalmente mi ha inchiodata alla sedia la prima volta che l'ho ascoltato, perché è stata una cosa pazzesca. È un disco energico, lei è solare, è forte, è luminosa. Io l'ho incontrata quando, credo che ti sia capitato anche a te, ma quando la vedi in questo periodo, e l'abbiamo vista sul palco dell'Ariston, ha un'energia che ti avvolge, ti travolge, veramente ti dà una sensazione di bellezza come mai prima. Lei inizierà il 6 maggio a Todi, il 9 maggio sarà a Roma all'Auditorium Parco della Musica e poi il 22 maggio a Milano, ma anche lei farà moltissime date, quindi merita di andarla a vedere, perché Paola Turci, e poi farà un concerto speciale con Paolo Freso l'11 aprile al Teatro Manzoni di Bologna a favore di una fondazione per aiutare i bambini del Centro Italia colpiti dal terremoto, quindi insomma sarà una bella iniziativa, quindi se vi capita lei con Paolo Freso di andarli a vedere. Un altro disco che è uscito recentemente, che io ho amato molto e che credo insomma che tu possa condividere, è il disco di Renzo Rubino. Ah, che caro, gelato lui, dopo mi il piace mare. Tanto, sì. Un disco meraviglioso, e lui sarà anche in concerto il 20 aprile al Quirinetta, poi sarà a Genova, al Quirinetta di Roma, poi sarà a Genova, a Firenze, il 12 maggio sarà al Serraglio di Milano, e devo dire questo è un disco bellissimo, un disco di grande poesia, perché Renzo sa regalare grande poesia. Lui aveva avuto, lo racconta nelle interviste che sta facendo in questi ultimi tempi, un piccolo momento insomma di non ne poteva più dopo i due Sanremo che aveva fatto e che erano stati di grandissimo successo, ha avuto bisogno di ritornare nella sua terra che è la Puglia, di purificarsi da tutto, andare a pescare, coltivare l'orto e poi rinascere. Ha rimesso le mani sul pianoforte ed ha creato un disco veramente di una bellezza, di una poesia che io vi consiglio di andare a vedere, perché poi ecco, Renzo è uno di quelli che dal vivo dà veramente tutto e ti trascina tantissimo. Un altro molto forte che ho visto qualche giorno fa qui a Roma, ma che continua a fare concerti in questi giorni, è Bruno Risasso. Ah, anche lui. Disco bellissimo, live pazzesco, ha fatto un live qui all'Atlantico a Roma, sold out. È uscita tantissima bella musica italiana in questo periodo, veramente il 2017 tantissima. È generoso. Veramente tantissimo, veramente come vi dicevo all'inizio, proprio c'è l'imbarazzo della scelta. Brunori farà anche, tra l'altro, due date importantissime, una il 30 giugno al Carroponte di Milano e una il 4 luglio al Rock in Roma, che insomma sono due date che poi effettivamente a questo punto lo consacrano, perché sono due diciamo location molto grandi e importanti, ma lui è uno di quelli molto veri che ha fatto tanta strada per arrivare a questo punto, per raggiungere questo obiettivo. E devo dire che questo disco è proprio la ciliegina sulla torta di una carriera che è cominciata da lontano, ma che comunque lui ha saputo mantenere con grande costanza e con grande coerenza. Chiara, sai, invece ti devo dire che io ho il cuore spezzato. Sai perché? Chi mi perdo sia nelle date a Milano che in quelle a Roma? Perché io sarò all'Eurovision con Gabbani, che poi partirà anche lui per un tour. I The Journalists. Me li perdo. Perché saranno a Roma il 9 maggio e a Milano l'11 maggio. Io sarò in Ucraina. I concerti. E per cui, insomma, io vi consiglio di andarli a vedere, perché loro sono veramente il fenomeno degli ultimi tempi, anche loro. A proposito di buona musica, di quello che dicevamo, insomma. Ma anche loro hanno cominciato sono partiti da lontano, perché sono esplosi adesso, ma insomma, chi di noi, insomma, segue la musica un po' anche nelle retrovie sa che insomma sono partiti già da qualche anno a cercare di fare i piccoli club, e invece insomma adesso hanno raggiunto le grandi location a Sago, il Palalo Automatica a Sago a Milano e il Palalo Automatica a Roma, insomma, quindi celebrano veramente la loro insomma tutto il percorso che hanno voluto fare. Chiara, abbiamo un minuto largo, mi segnali almeno uno straniero, un concerto internazionale da non perdere? Straniero, beh, guarda, io te ne segnalo due. Io ti direi che tra giugno e luglio ci sono Bruno Mars e Robbie Williams, che secondo me non sono assolutamente non mi da niente. Non sono assolutamente da perdere. Guarda, un'altra data ti volevo dire invece dell'ultimo degli italiani, che il 23 aprile Chiara sarà al Blue Note a Milano con un doppio concerto, perché uno non è bastato perché c'era troppa richiesta, e anche lei è un'altra che ha fatto un bellissimo disco con Mauro Pagani e che consiglio di ascoltare, perché è veramente un bellissimo disco. Che meraviglia, Chiara, grazie per essere stata con noi. Chiara di Giambattista, abbiamo citato Chiara Galeazzo, ma Chiara di Giambattista, sono molto contenta ogni volta che tu ci vieni a trovare al Sabato del Villaggio. Chiocciola, esatto, chiocciola Chiara di Giamba 1 con il numerino, però basta che seguiate me, l'ho appena retweetata, quindi la trovate subito. Grazie Chiara per essere stata con noi, grazie, un abbraccio. Grazie, ciao, grazie Marta, Chiara, ciao. Che tanto sapete che la chiamiamo sempre quando parliamo di musica, di concerti, perché come vedete lei è espertissima e soprattutto li segue tutti, quindi ci sa dire cosa vale la pena andare a vedere, per cosa dobbiamo rompere il porcellino. Allora, una brevissima pausa perché poi saremo insieme al nostro gastronauta per parlare di... vabbè, insomma, a tra poco. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta Il Sabato del Villaggio. E prima di dare la linea al nostro gastronauta, vorrei leggere il messaggio di Emilia. Grazie Emilia che ci ha mandato un sms al 349-238-6666 dicendo che lo spettacolo di Gegé Telesforo legato al progetto con Unicef era molto bello. Abbiamo regalato un po' di biglietti nelle scorse due puntate. Sono davvero molto contenta. Bravo, bravissimo Gegé Telesforo. Grazie a Emilia. Adesso è il momento del nostro gastronauta che vorrei introdurre così. Questo pezzo dei Camillas che sono sempre molto molto molto simpatici. Parliamo dunque di pane, perché me lo ha anticipato il nostro gastronauta Davide Paolini. Ciao Davide. Ciao, ciao. Ma di che pane parliamo? Pane in generale o cosa fa tendenza? No? No. Allora dovrei iniziare con le favole che ci raccontavano da bambini, ora forse non le raccontano più. C'era una volta, c'era una volta la Michetta. Vabbè, io sono Brianzola, la Michetta me la ricordo molto bene. A Roma a Rosetta e a Bergamo Stellina, insomma, parliamo di quel pane che era diventato introvabile, poi come nelle favole riappare all'improvviso perché sta tornando di grande tendenza e addirittura stanno nascendo dei locali che si chiamano Michettas Panino Milano, Zia Rosetta a Roma, Micca da qualche altra parte, Mica, insomma, sta tornando grandissimamente questo vecchio pane che tutti immaginano sempre con la mortadella, e io mi immagino sempre un muratore sull'impalcatura con il cappello, quello fatto col giornale e questa Michetta in mano, ma oggi purtroppo non è più come un tempo, oggi sta tornando veramente di moda, nel senso che tutti stanno cercando di nuovo di fare la Michetta. Ma raccontiamo un po' di storia perché è molto bella. Innanzitutto, la Michetta a Milano ha ottenuto il riconoscimento di DECO, che è denominazione comunale. Milano se n'è appropriata in questo modo, però poi racconterò una storiella, insomma, molto divertente, che da un'altra parte dell'Italia c'è invece un'altra storia della Michetta, in questo caso un dolce, che anche in questo caso è DECO ed è a dolce acqua, però lasciamo per un momento il dolce, questo dolce ligure di dolce acqua, per tornare alla Michetta e all'amica. L'hanno portata gli austro-ungarici durante il periodo austro-ungarico a Milano, questo pane era stato portato ovviamente dai militari e si chiamava in Germania, forse si chiama ancora, Kaisermehl, e a Milano immediatamente fu cambiato il nome perché il nome Kaiser dava abbastanza noia e quindi non ne volevano più parlare. Che avevano delle assonanze. Da, diciamo che ricordava qualcosa di non tanto gradito. E allora cosa successe? Che a Milano il pane era Micca e di lì è diventato Michetta. Tanto magari non tutti forse sanno cos'è la Michetta e cos'è la Rosetta. È quel pane che c'ha quella rosellina in cima, diciamo, ed è un pane molto croccante, quasi senza mollica, quindi vuoto, per cui ai panettieri probabilmente rende molto poco, perché ovviamente essendo così vuoto il peso è ridotto veramente al minimo, e poi pare anche che abbia delle grosse difficoltà di produzione, quindi non è un pane facile, perché pare che soffra di meteoropatia, quindi addirittura seconda le temperature o d'altro è difficile da produrle. Accidenti. Però torniamo alla nostra Michetta. Il problema di questa Michetta, chi la conosce, chi la mangia, chi l'ha continuata a mangiare, sa che alla sera purtroppo diventa gommoso. È vero, sì. Quindi bisogna mangiarlo subito. Eppure alla sera a casa magari si può mettere anche nel forno, quindi potrebbe essere anche oppure questa. Bisogna andare da quei panettieri che sfornano più volte al giorno. Esattamente, un tempo non era così, Marta. Un tempo sfornavano una volta solo, ed era di notte. E poi sai cosa mi ricordo io, Davide? Che a volte facevano il pane doppio quando c'erano i festivi o quando c'era la domenica. Noi mica avevamo i negozi aperti e quindi arrivavano questi sacconi del pane che portavano il garzone col motorino e il cestino davanti, perlomeno in provincia era così, e c'era il pane doppio, quindi nel festivo il pane era solitamente abbastanza cattivo perché insomma aveva due giorni. Ma quando si parla di panettieri, chissà perché a me viene sempre in mente il panettiere di amici miei, va bene? Certo. Lasciamo perdere. O Ninetto Davoli del Carosello con la bicicletta. Esattamente. Quindi il panettiere, tra l'altro, diciamo, facciamo anche un elogio ai panettieri, perché negli ultimi anni il pane era veramente calato di qualità. Oggi c'è un grande ritorno anche in base, si stanno trovando delle nuove farine. Vero. Quindi diciamo c'è un movimento molto importante. Dicevo però appunto che questa Michetta sta diventando protagonista di alcuni locali, perché lo hanno fatto diventare un po', come posso dire, il testimonial o di paninoteche o di altri locali dove si mangia, e quindi è tornata completamente in auge. E non bisogna confonderla, ecco, questo è importante. A Roma c'è un altro pane che è l'equivalente, diciamo, di notorietà della Michetta a Milano, non è proprio la Rosetta, è un pane completamente diverso dalla Michetta e dalla Rosetta, si chiama Ciriola. Certo. La Ciriola, se a Milano si mangia il pane con la mortadella, la Michetta con la mortadella, così pure a Bologna, così pure in tante altre regioni, perché anche a Bologna è molto diffusa la Michetta, si produce ancora. E dirò tra l'altro che ci sono degli appassionati che stanno studiando di depositare addirittura le misure esatte per la Michetta, diciamo la misura, la forma, per mangiare la mortadella, perché la Michetta richiama la mortadella. Infatti ti stavo chiedendo come la facciamo, la imbottiamo con la mortadella? La imbottiamo con la mortadella, magari ci mettiamo dentro, se vuoi, della giardiniera, oppure ci mettiamo anche un formaggio, però devo dire che la Michetta va benissimo anche con il prosciutto, va benissimo anche con tanti altri salumi, e io sono convinto che negli ultimi tempi, vedrai, ci sarà un grande boom, anche perché ci sono molti locali che stanno sorgendo proprio in questa direzione, e te ne nomino uno che è uno dei più noti, se vogliamo, pizzaioli italiani, che si chiama Saporella, la pizzeria, il proprietario si chiama Bosco, che ha aperto proprio un locale a Verona che si chiama Pizza Samurai Stand Up. E tra l'altro faccio una parentesi, in questi giorni da domenica inizierà il Vinitaly, quindi potrebbe essere una diciamo un indirizzo che vi do. Certo. Andate a mangiare da Pizza Sapore Stand Up, perché lì troverete una Michetta straordinaria che ha cominciato a produrre, ma anche tanti altri, diciamo, prodotti che si avvicinano a tutta la serie della panetteria. Qui però il panino appunto viene servito con la Michetta, come dicevo, con Zia Rosetta a Roma, che è un altro locale appunto che fa tanti tipi di panino, e la Michetta Panino Milano, e poi a Milano ci sono tantissimi panettieri che ormai la panetteria la chiamano Mica, quindi è un nome che sta tornando dopo essere stato messo in cassaforte per tanti anni, ma la storia è così. Voglio ritornare sul discorso di Dolceacqua, perché non è da scambiare con l'amichetta pane. L'amichetta è il dolce tipico di Dolce Acqua, quindi questo delizioso luogo ligure, che ha utilizzato questo nome addirittura nel 1300. Pare che la storia si rifaccia al 1300. Accidenti. È dolce, è che viene ancora prodotto, e come, durante l'anno si trova nelle panetterie, e ci sono delle bellissime storie, anche le solite leggende che legano tutti i prodotti gastronomici italiani, che io dico buona parte sono inventate perché nessuno potrà mai più controllare, erano la forma di pubblicità dal 300 fino al 900, quindi le leggende servivano solo a questo, però sono una bellissima storia di racconti, di narrazione o di storytelling, come usa chiamarle oggi. Certo. Bene, io credo, so se c'è ancora spazio per la chicca, Davide, ecco. Ce l'abbiamo. Allora, la mia chicca è importante perché vi porto in terra di Romagna, in quella Romagna che si chiama Romagna Toscana, perché molti non la conoscono, è la parte alta della Romagna, quella appunto che confina con la Toscana aretina, una zona bellissima dove ci sono delle foreste bellissime. Bene, in questa zona ora c'è una diga che serve acqua fino a San Marino, e lì è un panorama straordinario da andare a visitare, e poi appunto anche fare del trekking, andare a fare delle lunghe passeggiate, e poi arrivare a un paesino che si chiama Galeata, e addirittura nel borgo, un borgo che si chiama Pianetto, dove c'è un locale delizioso che si chiama... Mi sa che tu Galeata lo conosci bene. Io lo conosco bene. ma non avevo mai parlato di questo posto. No. Dai, vai dove ti porta il cuore, come diceva un vecchio libro. Si chiama La Locanda Campanara. La Locanda Campanara, dove c'ha 6 camere deliziose, in un borgo che alla mattina c'è un silenzio spettrale perché ormai è rimasto abitato da ben pochi, però è ancora ben tenuto, quindi vale la pena di andare anche a dormire. E qui c'è la Locanda Campanara, ha una trattoria, una vera trattoria con la T maiuscola, dove viene servita una cucina tipica appunto della Romagna Toscana, che è quella cucina senza orpelli o rifacimenti. E io nomino alcune cose, ad esempio i crostini caldi con patè di fegatini, la giardiniera fatta appunto dai proprietari, poi il tortello sulla lastra. Ecco, cos'è il tortello sulla lastra? È una cosa straordinaria di questa terra, è un tortello ripieno di zucche e patate, e è servito come una piadina, quindi grande, non è un tortello di quelli piccoli che si mangiano solitamente, viene messo appunto sulla lastra, così come una piadina, e viene servito di solito vicino con il raviggiolo. Il raviggiolo è un formaggio ormai raro, molto raro, che si trova appunto nell'Appennino tosco-romagnolo di quella zona, e non può essere trasportato purtroppo perché dura ben poco, bisogna mangiarlo fresco. Poi si possono mangiare delle polpettine di razza bovina romagnola, un po' come i mondeghili che si mangiano a Milano, o delle polpettine che si mangiano da altre parti. Poi si arriva ai primi, in Romagna è la patria dei primi, allora le tagliatelle tirate a mano con il ragù, o i passatelli asciutti con gli stridoli. Gli stridoli sono un'erba tipica di questo territorio, si trovano anche da altre parti, bisogna mangiarli in stagione, quindi in questa stagione. I secondi, si può andare dal piccione arrosto, si può andare, per chi invece è vegetariano, le polpettine di ricotta, rosolacce, pianta di papavero e stridoli, oppure si può arrivare in fondo, chi arriva in fondo, c'è una carta dei dolci molto interessante, tra cui c'è un dolce locale che si chiama Ramerone, è un dolce molto particolare che ha una storia in questo borgo, perché anche nei borghi piccoli c'è sempre una storia di qualcosa, di un piatto, o di un dolce, così è l'Italia. E poi si può chiudere col caffè alla moca come si faceva un tempo. Ah, quindi, che meraviglia, sì, mi piace moltissimo. Lo ripeto, la Locanda Campanara, via Borgo Paianetto di Galeata. Evviva Galeata, grazie al nostro gastronauta Davide Paolini, al prossimo sabato. Ciao, a presto. Il sabato del villaggio. Eccoci qui, Roberto che ci scrive: sempre grande il gastronauta, vero, verissimo, sempre grande il gastronauta, ma adesso è il momento del nostro Enrico Pagliarini, mi ha detto voglio parlare di luci, allora lo introduco così. Why are you keeping me at a distance? All that I'm asking for is forgiveness. Are you even listening? Am I talking to myself again? staring up at the ceiling, waiting for you to give me some kind of reason. Are you even listening? Am I talking to myself again? And I know you don't owe me your love, and I know that you don't owe me nothing at all. Ain't no way I'm giving up on you. Don't leave me here in the dark where it's hard to see. Show me your heart, shed a light on me. If you love me, say so. If you love me, say so. Allora, questa canzone si intitola Shed a Light. Illuminami, cantano, insomma, cantano, suonano David Guetta e Robin Schulz. Enrico, illuminami dovunque tu sia. Dove sei? Ci sei? Illuminerò, qua. Sì, eccoci qua. Buon pomeriggio a tutti. Buon ciao. Buon pomeriggio, Enrico. Allora, mi hai detto voglio parlare di luci. Va bene, parliamo di luci. Perché? Che anche cosa c'è di se nuovo? Siamo, anche se siamo alla radio, quando si parla della copertura delle frequenze della radio, si dice che un'antenna riesce ad illuminare un territorio. Allora noi oggi vi illumineremo parlando di luci. Allora, tutto nasce da una mia visita fatta un paio di giorni fa al Fuorisalone. Molti, tra l'altro ne parleremo poi più tardi con Giulia, ecco. Crivelli, ma magari con Giulia parliamo anche un po' delle feste, così. Tu invece sei andato a vedere luci? Sì, sono andato a vedere luci. Allora, sono andato a vedere un po' di cose tecnologiche. Tecnologiche, no? Sì. Tecnologiche. Allora, cioè, tra l'altro all'interno del Salone del Mobile, quello ufficiale che c'è alla Fiera di Milano, c'è anche una parte dedicata all'illuminazione che si chiama, certo, Euroluce. C'è Euroluce, io ci sono stata per l'inaugurazione, esatto. C'era tantissima gente. Ci sono cose bellissime, molto bello. Allora, sono andato però al Fuorisalone, che oramai ha invaso tutta la città di Milano, ci sono installazioni di tantissimi tipi. Se parliamo di luce, probabilmente una delle cose, adesso non saprei dire se è proprio la cosa più bella in assoluto, anche perché sul bello poi questo va a gusti. Allora, LG ha presentato una cosa che si può vedere fino a domani in via Tortona al Super Studio, una cosa che si chiama Sense of Future. È una installazione con varie fonti luminose, ma quella che fa più impressione è una parete di 16 metri per 5 con 30.000 piccole mattonelle, piccole piastrelle OLED. Allora, se uno oggi pensa a una luce moderna, molto probabilmente penserà al LED. Al, no? LED, certo, sì. Allora, il LED è ormai la tecnologia che ha sostituito la luce ad incandescenza, consuma poco, è una tecnologia ormai molto matura. Allora, la prossima frontiera dell'illuminazione, che non sostituirà il LED ma si affiancherà per tutta una serie di cose che adesso vi racconterò, è l'OLED. Noi quando pensiamo all'OLED pensiamo ai televisori OLED. Sì. La base, il principio tecnologico è sempre lo stesso, cioè un elemento, un materiale che è capace di emettere luce propria. Tutte le tecnologie LED, o meglio, soprattutto le tecnologie LED che riguardano i display, i televisori, non emettono luce propria ma hanno i cristalli LCD, e dietro c'è questa retroilluminazione LED. Allora, con lo stesso principio, alcune case produttrici, LG una di queste, ma anche tutte le altre case che producono illuminazione, hanno creato delle, potremmo dire, lampade, delle lampadine OLED, che quindi emettono luce propria, emettono una luce molto morbida, molto più simile alla luce naturale. Ecco, perché di solito in questi casi si dice sì, vabbè, le luci a risparmio energetico, ma sono fredde, non sono calde come quelle a cui eravamo abituati un tempo. Sì, anche se oggi la tecnologia LED è maturata, quindi ci sono anche gradi di calore, okay, della luce, si possono avere delle luci anche molto più simili alle vecchie lampadine, o comunque molto più simili alla luce naturale del sole. Comunque questa tecnologia OLED ci permette di avere appunto una luce molto più morbida, ma sicuramente la caratteristica principale è che permette di creare punti luce uniformi e bidimensionali e non puntiformi. Allora, l'OLED è una tecnologia puntiforme, cioè c'è un puntino, o io posso mettere anche tanti puntini uno di fianco all'altro. In questo caso invece io posso creare, ed è quello che ha utilizzato questo artista giapponese dal nome impronunciabile in questa installazione di LG, una piastrella luminosa. Stiamo parlando di piastrelline molto, molto piccole, ma io posso fare piastrelle anche un po' più grandi, cioè stiamo parlando di una piastrella di 5 cm x 5 cm, 3 cm x 3 cm, molto sottile, molto leggera. E proprio grazie a queste caratteristiche, queste lampade OLED, permetteranno soprattutto agli architetti, agli artisti, di fare cose fantastiche. Perché se noi mettiamo assieme la leggerezza, la sottilezza, perché stiamo parlando di cose molto sottili, spessore di... allora, tecnologia di base addirittura di un capello, ma poi il prodotto finito, stiamo parlando di una cosa che è di un millimetro e mezzo, due millimetri. Mettiamo assieme quindi la leggerezza, il fatto che sia sottile, il fatto che possa essere anche flessibile e che io possa creare delle superfici luminose, tutta la superficie è luminosa, posso creare cose fantastiche, che ne so, lampade con nuove forme. Posso appiccicare questi film sottili su pareti, su... Quindi insomma, stiamo su tra tecnologia e design. Sì, sì, sicuramente insomma, l'elemento di design è molto importante. Pensa che addirittura uno potrebbe creare dei gioielli, tant'è che le hostess che sono molte tra l'altro sono coreane, in questa installazione di LG, hanno una collana. E invece di un gioiello di insomma di d'oro, d'argento, hanno un mattoncino OLED. Che cara, quindi quando... come sei luminosa stasera. Esattamente, questo potrebbe essere un'idea, anche perché consumano molto poco, quindi se io faccio un gioiello, quindi molto piccolo, avrà bisogno di pochissima energia, quindi posso nascondere una batteria che può durare addirittura anche anni o comunque insomma per molto molto tempo. Non vorrei deluderti, comunque preferiremo i diamanti, però... sì, certo, capisco, però diciamo però. Che anche qui le case che producono gioielli dovranno inventarsi qualche cosa per far sì che a voi donne piacciono di più i gioielli OLED piuttosto che i gioielli, quelli classici col diamante. Auguri! No? Però cioè, la sfida è difficile, capisco, certo. So, questa era una idea che volevo darvi, perché poi nei prossimi anni, allora queste tecnologie già da alcuni anni esistono, però sono ancora, i prezzi si stanno effettivamente abbassando, ci si possono comprare dei mattoncini, delle piastrelline OLED con alcune decine di euro, ovviamente stiamo parlando di cose molto semplici, sì, poi è ovvio che con un mattoncino non ci fai nulla, non illumini nemmeno una stanza, devi metterne un po' attorno. Stiamo parlando ancora di una tecnologia che ha una luminosità, un'efficienza ancora minore al LED, quindi stiamo parlando di un'altra cosa, e soprattutto in questa fase, poi vedremo quale sarà lo sviluppo, particolarmente dedicata al design, a creare situazioni come ad esempio questa, una parete molto affascinante, molto bella, piena di questi mattoncini che emettono luce propria. Cioè Valeria invece... è regia che dice di sì, perché evidentemente li ha già visti e le sono piaciuti, ma Valeria diceva di sì molto anche belli. Ai gioielli, quindi... ecco, perfetto, no, però dice certo. Che comunque è meglio il diamante. Enrico, facciamo una brevissima pausa per il traffico, anche perché poi tu spesso mi hai parlato di luci connesse, voglio sapere se c'è novità anche sotto questo punto di vista. Allora, traffico, e poi saremo ancora insieme con Enrico Pagliarini. Per il tuo vino scegli il meglio. Colombin, tappi in sughero, fidati di un esperto. Vi presenta Il sabato del villaggio. E credo che parleremo di, non di illuminazione, ma di elettricità anche nel giornale radio che ci seguirà, perché insomma c'è stata un'inaugurazione da brivido a Gardaland, è mancata la corrente, diciamolo così in maniera molto semplice, insomma per un problema di alimentazione una giostra è rimasta bloccata e una famiglia è rimasta bloccata in alto, però tutto è andato bene, però ci spiegherà tutto il nostro Gigi Donnelli nel giornale radio delle 16. Disavventure. Invece parliamo di luci che funzionano, che illuminano, con Enrico Pagliarini. Enrico, luci connesse, era un tuo cavallo di battaglia, voglio sapere se insomma si parla ancora di luci connesse. Sì, si parla sempre di più, perché tutto l'altro mondo dell'illuminazione, che invece è quello più maturo ormai, quello normale, chiamiamolo così, cioè dell'illuminazione LED. E qui c'è un mondo vastissimo, cioè dal mondo della lampadina di incandescenza, che sostanzialmente quella era, con il mondo LED il settore dell'illuminazione è esploso, quindi si possono creare tantissime cose anche con qualità diverse. Quindi quando uno ad esempio a proposito di qualità dice ma ormai le lampadine LED costano pochissimi euro, attenzione, perché costano pochissimi euro quelle di qualità non eccezionale. Certo. Ci sono ovviamente delle lampadine LED, le normali lampadine LED, che costano 10, anche meno, meno di 10 euro e garantiscono buona qualità, però quando vedo cose da 2-3 euro un pochettino mi preoccupo. Però concludendo e dicendo qualcosa sulla connettività, oggi tutto il mondo LED sta sempre più andando verso la connettività, il che vuol dire che noi possiamo all'interno della nostra abitazione connettere il sistema di illuminazione o anche poche luci, alcuni punti luce, alla connettività interna, quindi tipicamente al wifi di casa, e tramite lo smartphone pilotare le nostre lampadine. Uno potrebbe dire vabbè, ma cosa te ne fai, perché dovresti connettere lo smartphone? Perché con lo smartphone poi con alcune applicazioni si possono creare anche delle situazioni, delle combinazioni e di colore e o di acceso spento nell'arco della giornata o anche nello stesso momento. Insomma, cose molto, molto interessanti, molto divertenti. Se gli ascoltatori ce lo richiedono, ne riparleremo. Grazie Enrico. Io ricordo anche il podcast di 2024, anzi il super podcast di Enrico Pagliarini con 2024. Enrico, al prossimo sabato rimani con noi perché parliamo di cinema. Ciao Enrico. Quante classifiche leggiamo ogni giorno? Perché non fare una classifica di chi cerca lavoro? Tutto il tuo percorso professionale lo inserisci in un sito, un algoritmo lo elabora e ti posiziona in una classifica. Devi trovare un nome che funzioni. Ce l'ho già. Egonomia. Non potete pretendere che una banca finanzi il progetto di un liceale. Sarà nato in Italia Steve Jobs, non gli davano manco il mutuo per la prima casa. Riprenditi il posto che meriti, tu sei più bello di loro. Ed è il momento, come sempre, delle uscite al cinema del fine settimana. Questo era un brevissimo estratto di The Startup, un film di cui si è parlato moltissimo in questi giorni anche per qualche polemica legata alla storia vera da cui è tratto. Ma noi vogliamo parlare del film, vogliamo sapere se vale la pena andarlo a vedere proprio dal punto di vista cinematografico. E allora lo chiediamo al nostro super esperto Franco D'Assisti. Ciao Franco, allora andiamo a vedere The Startup? Ciao Marta, un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, al di là delle polemiche, di tutto quello che si è letto sul contenuto e sulla aderenza del contenuto alla storia vera di Matteo Achilli e di Egomnia, devo dire che questo The Startup è un buon film, e questo analizzandolo semplicemente come film, come meccanismo narrativo, come capacità di portare avanti una storia e anche di tenere lo spettatore abbastanza incollato, facendo un'operazione che ricorda, è inutile negarlo, quella un po' di David Fincher con The Social Network. La storia è quella di un ragazzo molto giovane, molto intraprendente, che anche un po' per, sotto un certo profilo, vendicarsi di alcuni torti dovuti alla sua condizione sociale di ragazzo di periferia, di ragazzo di borgata, decide di investire tutto su un'idea, l'idea di un social, appunto, che con un algoritmo particolare renda a ciascuno il merito che ha e quindi ti ponga di fronte al mondo del lavoro con una graduatoria, questo è un po' utopistico forse, ma con una graduatoria il più possibile realistica, insomma il merito premiato al posto delle raccomandazioni, delle provenienze familiari, eccetera. Alessandro Dall'Atri è un regista di grandissima esperienza, ma anche di grandissima mano, lo è sempre stato, anche negli anni 90 con film come Senza Pelle, come Americano Rosso, eccetera, e qui sicuramente questa qualità si vede sotto il profilo dei dialoghi, che sono sempre asciutti, senza grande retorica, si vede per come sa svicolare dalle insidie di un plot che poteva poi andare di volta in volta verso la scoppiazzatura americana o verso il film di Moccia, ma invece rimane sempre sul binario giusto, e per come dirige gli attori. The Startup è un film al quale rimane incollato dall'inizio alla fine, e devo dire poi alla fine cinematograficamente questo è quello che conta. Per il resto ognuno può fare l'approfondimento che vuole sulla veridicità delle storie raccontate, ma ricordiamo sempre il film può anche essere tratto liberamente da una storia non ha il dovere di seguire per forza la verità fino in fondo. Questo fine settimana poi esce anche un altro film, insomma è importante andarlo a vedere anche perché è un periodo storico un po' difficile. Allora, il nuovo film di Aki Kaurismäki, volevo sapere qualcosa, Franco. È un film notevole, questo potrebbe essere persin banale dirlo, il film di Kaurismäki, L'altro volto della speranza, ed è un film che sta dentro la sua cinematografia esteticamente e tematicamente. L'avevamo lasciato con Miracolo alle Havre, anche lì il tema era il rapporto nostro e soprattutto del Nord Europa, che noi tendiamo a, come dire, a raccontare come una sorta, non dico di isola felice, ma insomma di luogo dove l'accoglienza rispetto al diverso, rispetto al clandestino, rispetto all'immigrato, è comunque un'accoglienza diversa, migliore, con uno stato sociale più pronto ad accoglierti. Ecco, le cose non stanno esattamente così e Kaurismäki ce lo sta raccontando da qualche film a questa parte. L'altro volto della speranza racconta di un rappresentante di camicie, un po' spiantato, che praticamente ha un incontro quasi fortuito con questo clandestino rifugiato siriano che si era imbarcato clandestinamente in una nave. I due, sullo sfondo della Helsinki contemporanea, troveranno un modus vivendi che li agevolerà entrambi. Insomma, un film sul dialogo, ancora una volta, piuttosto che sul conflitto. E un film che è pieno di quell'umor nero che ha fatto la fortuna di Kaurismäki, che all'inizio della carriera la puntava più sull'aspetto di una comicità. Qui sicuramente è un Kaurismäki molto molto più maturo, però con la stessa efficacia, con la stessa capacità di trattare temi di grande drammaticità, sempre con un filo di sorriso amaro sulle labbra. E per tutti quelli che volessero andare al cinema in famiglia con i bimbi, esce qualcosa adatto ai bambini? Arriva nelle sale il nuovo capitolo di quella che è diventata ormai una piccola saga cinematografica, quella dei Puffi. E allora, siccome i Puffi hanno collegato tante generazioni, quella nata negli anni 80 sicuramente e con quella contemporanea, sicuramente può essere una proposta che mette insieme un po' tutta la famiglia. In questo nuovo film, che si intitola I Puffi, viaggio nella foresta segreta, si racconta di una mappa misteriosa che spinge Puffetta e i suoi amici a una corsa appunto verso questa foresta, attraverso questa foresta popolata di creature magiche. Inutile dire che c'è il ruolo del cattivissimo Gargamella, come sempre pronto a fare il suo dovere di cattivo, film pieno di azione, di insidie e sicuramente uno spettacolo che metterà, come si diceva una volta, d'accordo grandi e piccini. Grazie Franco, l'appuntamento con te dunque dopo il giornale radio delle 18 con La Rosa Purpurea. Ciao! Ci sentiamo alle 18 con La Rosa Purpurea, ospiti Alessandro Dalatri, Sergio Castellitto. Non andate via, restate con noi almeno fino a quell'ora, perché poi abbiamo un'ora di cinema da passare insieme. Domenica, ore 14:30, Voice Anatomy, Radio 24. Non mancate, sarebbe un peccato. Parola di Bond, James Bond. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Il sabato del villaggio. E diamo inizio alla seconda ora del sabato del villaggio, come sempre il nostro villaggio globale, la nostra guida per orientarci in acquisti mentali, nuove tendenze, musica, TV, serie TV, cinema, consumi, tecnologia, libri. Per tenerci compagnia, i vostri SMS e WhatsApp al numero 349-238-6666, il mio account di Twitter, ma anche di Instagram, @ Marta Cagnola. E abbiamo tanti argomenti per la seconda ora. Volete sentirli un po' in anteprima? Ma sì, dai, vi dico già che cosa ci aspetta per la seconda ora del sabato del villaggio. Ci viene a trovare un grandissimo artista, io lo adoro, è un ritorno da non perdere, quello di Mario Venuti. Poi i libri del momento con Alessandra Tedesco, i viaggi ma non solo, nello spazio dei consumi con Maria Luisa Pezzali. Ma cominciamo tornando a Milano nella settimana magica del Salone. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. shirt so sexy it hurts. Lo so che di solito questa canzone la uso quando si parla di moda, ma ora vi spiego. Allora, intanto è arrivato il messaggio di Claudio, al quale mando un abbraccio enorme, perché dice che ha fondato un fan club a Mantova. Ciao Claudio, io so che a te piace molto Giulia Crivelli. E senti che sorpresa, chi abbiamo in diretta per parlare di salone fuori salone? Giulia Crivelli, ciao Giulia! Ciao Marta! No, ma non abbiamo fatto apposta, ma Claudio ha appena mandato un messaggio dicendo che ti adora e noi abbiamo Giulia Crivelli! Ecco. Allora Giulia, cosa hai visto di bello in questi giorni? Anche perché tu, appunto, noi ti sentiamo sempre parlare di moda al Sabato del Villaggio, però, allora, gli argomenti si toccano, sì, no? Sono due ambiti sempre più vicini, intanto per questa incredibile e sempre sorprendente riserva di creatività che entrambi hanno. Devo dirti, io confesso, stamattina sono andata ancora a Rho, al Salone del Mobile, diciamo la fiera, 56esima edizione, tutto il bellissimo quartiere di Rho con la nuvola. Tra l'altro che so che nel fine settimana è aperto anche ai visitatori, esatto. Quindi una volta non tutti era così, possono era andare, solo sì. La domenica e solo il Salone Satellite, da qualche anno invece c'è questa bella cosa. Poi sono scappata perché stavano arrivando le folle. Sono tornata in città con la metropolitana che funziona, è perfetta la metropolitana. Ah sì, diciamolo rossa, per quando... chi non fosse di Milano, la metropolitana arriva fino a Rho Fiera, quindi uno prende la metropolitana rossa e scende proprio già al salone. Comodissimo, dal centro sono 20 minuti e vabbè, purtroppo c'è stato un giorno di sciopero, però quello a parte è la cosa più veloce e più comoda. E tornata qui, vabbè, la cosa che colpisce, lo dico veramente perché io tutti gli anni sento intorno a me delle lingue che non riconosco, ogni anno di più. Perché ed essendo proprio... Giulia poliglotta. Ma ci sono delle cose stranissime, dei suoni stranissimi e poi moltissimi ragazzi giovani del nord che quindi per loro qui siamo tipo ai tropici, perciò sono tutti felicissimi di questo sole, siamo anche fortunati quest'anno veramente, sì, con sì, delle sì, giornate splendide. E quindi sono in giro ed è bellissimo perché sono tutti in giro con la loro mappa, a tutti viene voglia di dargli consigli e indicazioni, soprattutto per il centro. E un ragazzo francese con cui parlavo mi diceva: sai, il vostro centro, che voi chiamate centro, vi sembra grande, per noi di Parigi, che siamo abituati a fare ben altri spostamenti, è fantastico, perché noi in una giornata vediamo una quantità di cose che per vederle a Parigi ci vorrebbe una settimana. Sì, Milano non è grandissima, ecco, diciamolo. E per parlare appunto del rapporto tra design e moda, tra l'altro c'è questo trend, secondo me, insieme al... all'e-commerce e alla sostenibilità, sono veramente i temi del momento, che è quello di come fare dei negozi che piacciono veramente, mm-hmm, che siano quasi delle case. E qui naturalmente la moda deve correre verso il design e verso gli architetti. E in Corso Venezia al 13, che appunto per chi non è di Milano è proprio a due passi dalla fermata di Piazza San Babila, Dolce & Gabbana hanno aperto il loro, hanno fatto una mostra proprio per far vedere in ogni stanza, tra l'altro un palazzo, Marta, che uno pensa, ma qui una volta ci viveva una famiglia, cioè delle cose incredibili, con tantissimo verde, perché poi Milano, dico purtroppo, ha un po' questo, che ha tanto verde privato. Nascosto, i famosi cortili che quando riesci a vedere sì, un cancello semiaperto, esatto, cerchi sempre di buttare l'occhio. La settimana di primavera del FAI sono veramente le occasioni per vedere questi spazi. E qui per esempio si fa vedere in ogni stanza come gli architetti hanno ideato ciascun negozio e ci sono poi molti schermi da cui si vede magari da che cosa sono partiti e che cosa è stato il risultato, una piccola finestra sulla creatività di questi architetti designer che sono una generazione un po' ibrida. Mi dicevano che una volta gli architetti famosi quasi si vergognavano di disegnare i negozi, non solo della moda. Invece i millennials, che hanno questa, sono nati, insomma, vogliono vedere tutto subito, sì, partecipare a un master plan che modifica una città è molto prestigioso, ma vuoi mettere col disegnare un negozio che tempo un anno vedi già il risultato, certo, delle persone che entrano. Altra cosa bellissima che ho visto, perché magari uno è già in Corso Venezia, cammina un po' più giù verso i giardini di Porta Venezia, a Palazzo Bocconi, che è un altro palazzo incredibile della famiglia Bocconi, veramente anche lì uno dice, ma una volta qui ci viveva qualcuno. Già l'ascensore è una specie di armadio di legno stupendo e all'interno c'è questa installazione di tutti gli Objet Nomad di Witton, che sono la loro linea di complementi d'arredo, da sogno. Sospiro, veramente. Sospiro. Ma poi devo dirti, con dei prezzi che comunque sono Certo, sono comunque prodotti di alta gamma, però hanno fatto in modo che veramente questi oggetti, sappiamo, cioè i mobili li usiamo, li dobbiamo usare per tanti anni, e beh, uno magari un pensierino ce lo fa. C'è per esempio una lampada pieghevole disegnata da un architetto giapponese, che è un sogno. Vabbè, sospiro un po'. Senti, invece hai fatto dei giri per il fuorisalone, ti sei divertita un po'? Ecco, perché poi adesso sono più o meno le 4, se uno ha un po' di pazienza, verso le 6 comincia l'ora del cocktail, e allora certo. Lì stupendo. E lì consiglierei di spostarsi o a Brera, che comunque ha anche tanta parte pedonale, quindi è anche molto bello, oppure nella zona di Tortona, dove tra l'altro, guarda caso, è pieno anche di showroom della moda. Perché lì questa volta più che le scorse volte, cioè gli anni scorsi sembrava apro il mio showroom di moda, ci metto una lampadina, un mobile strano e do qualche cosa da mangiare. Invece si sono tutti sforzati di fare delle cose molto strane. Per esempio nello showroom di Stone Island, tra l'altro vabbè, il padrone di Stone Island è anche stato il primo presidente dell'Associazione Designer Italiani dell'ADI, quindi continuano questi collegamenti, ha fatto un'installazione di giacche luminose fatte da un designer che ha reinterpretato le giacche Stone Island, tutte appese, molto belle. Oppure non so, Cartier, che tu dici Cartier cosa fa, presenza dei gioielli, no, i gioielli sembrano veramente quasi nascosti, però siccome sono ispirati il famoso chiodo di Cartier, lo hanno fatto in un garage che normalmente è un garage, un'officina, un'autorimessa, una macchina che pende, che è sospesa dall'alto, da cui cola una specie di liquido dorato assolutamente innocuo, e poi tutti intorno i meccanismi delle auto per far vedere quanta meccanica c'è in un orologio, come in un piccolo marchingegno come l'orologio. E sempre, naturalmente, ripeto, andateci tutti dopo le 6, oggi e anche domani, perché allora... Poi c'è un tempo bellissimo, sì, oggi a Milano. Catering quindi... a go-go. Ecco, l'ultimissima cosa, perché è proprio uno spazio verde, bello, da vedere, diventa ancora più bello in questi giorni, è sempre bellissimo, è dello spazio Rossana Orlandi, che è veramente... stata una delle pioniere nella promozione del design italiano, e lei ha questo spazio in via Matteo Bandello, che è una vecchia casa con dentro un cortile, che in realtà quello è aperto tutto l'anno a tutti, molto fiorito, e qui ci sono delle cose di giovani designer emergenti, anche ci sono alcune cose fatte con dei progetti sociali fatti nei laboratori delle carceri, e lo spazio vale di per sé. Tra l'altro anche lì c'è un bellissimo piccolo caffè, si possono assaggiare le centrifughe che adesso vanno così tanto, o le, come si chiamano gli altri, gli estratti, che io... Certo, ovviamente. Che bello, quante cose belle ci fai scoprire ogni volta. Tutto a piedi. Certo. E poi un'ultimissima cosa, che se uno vuol fare proprio le ore piccole, io l'energia non l'avrò, ma sono sicura che questi ragazzi giovani ce l'hanno, il Bike Me, cioè il bike sharing di Milano, per i giorni del Salone del Mobile, quindi oggi, ancora oggi e domani, 24 ore su 24, roba che neanche a Berlino. Ma che meraviglia, grazie Giulia. Voglio concludere con il messaggio di Rita, che ti dice apprezzo molto Giulia Crivelli. Grazie. Per la rassegna stampa della domenica. Grazie, Giulia, Rita, la domani. Usiamo in tutti i modi, povera Giulia. Guarda un po' di salone fuori salone anche per me. A presto, ciao Giulia. A presto. Noi traffico e poi ancora insieme, poi dobbiamo parlare di libri tra poco. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta Il sabato del villaggio. Vi seilt inn en morgen på Løabershavn, og samme dag så fikk jeg brev. Ordene du skrev brennmerket min sjel, og jeg tenkte først jeg ikke ville leve. Allora cominciamo lo spazio dei libri con Alessandra Tedesco con un quiz. Cara Alessandra, chi è questo cantautore? Non lo sai? Non lo so. Chi allora, è? Dovrei è saperlo. È un noto cantautore norvegese che si chiama John Esbo. Vabbè, ok. No, non so come si pronunci in norvegese, allora, sicuramente allora. Non così. Mi ha detto Alessandra Tedesco che avrebbe voluto parlarmi di un suo libro, ma lo sai che fa anche il cantautore? No, lo so benissimo che fa un cantautore, lui praticamente suona, canta in una band che è chiamata, adesso non so come si pronunci in norvegese, ma Dider. Ecco, questo questi ragazzi. Pare che sia un suo pezzo solista, non lo so, ma non l'avevo mai sentito. Fantastico. Vedi com'è carino, melodioso, dolce, proprio come i suoi libri. Sì, uguale proprio. Allora, per la cronaca, allora, siamo precisi, lui si chiama Jon Nesbø, perché ecco, essendo norvegese non la leggiamo, diciamo, all'inglese. Perfetto. Il libro di cui si sta parlando moltissimo in questo periodo, anche perché Jon Nesbø è stato alcuni giorni fa in Italia, è Sete, il suo nuovo romanzo pubblicato da Einaudi. Lui, come dire, è il maestro del thriller nordico, ma è molto apprezzato in tutto il mondo. Pensa che i suoi libri sono tradotti in 45 paesi e fino adesso ha venduto 33 milioni di copie. Solo? Sai quanto ammonta il suo conto in banca? Posso immaginare. Come minimo a 50 milioni di euro, ecco, come minimo. Allora, tornando però ai libri, Sete di Jon Nesbø, questo è un nuovo thriller. Di che cosa parla? Allora, innanzitutto torna uno dei suoi personaggi seriali più amati, Harry Hall, commissario di polizia di Oslo, che era proprio il protagonista del suo primissimo romanzo. Sono passati alcuni anni, 2-3 anni da quando si è sposato con Rachel e finalmente sembra, diciamo, aver messo un po' la testa a posto, sai, non beve più, non fa più operazioni sul terreno rischiose, perché addirittura pensa si è messo a insegnare alla scuola di polizia, tipo quei film comici. E invece chiaramente tornerà in campo, perché c'è un serial killer che si aggira per le strade di Oslo. Diciamo che due donne vengono uccise ognuna in casa propria, un'altra viene ferita gravemente sulle scale del suo appartamento e ci sono due legami fra le varie vittime. Uh-huh. Uno è un marchio di fabbrica che purtroppo, insomma, il serial killer lascia sui cadaveri, e l'altro che tutte e tre erano iscritte a Tinder. Terrore, adesso paura. Fra tutti i giovani e le giovani iscritte a Tinder, che diciamo è questa applicazione che serve, insomma, per creare degli incontri sentimentali o di altro genere, certo. Insomma. E ti dicevo, questo è un libro che sta avendo grande successo, se ne parla tantissimo, perché insomma è Jon Nesbø e tutti i libri di Jon Nesbø hanno un certo successo. Pensa che tu prima dicevi che carino, tutto dolce. Sì, perché la musica così melodiosa e romantica non sarebbe da lui. Sai che ha fatto Jon Nesbø a 7 anni? Cosa ha fatto? Allora, ha letto Il Signore delle Mosche, che voglio dire non è proprio un romanzo leggero. Mm-hmm. E quando, insomma, gli hanno chiesto ma perché a 7 anni? Ah, perché aveva la copertina macabra. E ha questo cominciato mi ha tirato. Ha cominciato subito, multiforme. Sì, ma poi ha fatto di tutto, appunto, il musicista, ha fatto il tassista, ha fatto il broker, è appassionato di arrampicata. Insomma, è veramente... Ho letto che era anche calciatore. Sì, ha giocato in Serie A. In Serie A nel campionato norvegese. Poi si è avuto un incidente, credo, ai legamenti. È un bell'uomo. È un bell'uomo, assolutamente affascinante. Ma per esempio ti dico che su uno dei suoi libri più famosi, Il Cacciatore di Teste, il maestro del crime Stephen King ha detto: divertente e inquietante, non riuscivo a staccarmene. Se lo dice Stephen King. Complimenti. Marchio di fabbrica, allora. Sigillo di garanzia, anzi. Continuiamo con i consigli, Alessandra. Un altro giallo, però qui siamo su diciamo sfumature un po' più soft, ma poi mica tanto, è La giostra dei criceti di Antonio Manzini, pubblicato da Sellerio. In realtà è una ripubblicazione, perché era stato pubblicato nel 2007 da Einaudi. Okay. Adesso però se ne sta parlando tanto perché è stato ripubblicato, è arrivato ai vertici delle classifiche, come spesso succede con i libri di Manzini. Allora, dicevo mica tanto, nel senso che ci sono anche delle scene splatter in questo romanzo di Manzini, che però possiamo definire un giallo divertente, quasi comico. Accidenti, quindi un po' di paura e un po' di risate. Sì, un po' di paura, perché la trama ha anche del grottesco. Vabbè, ci sono 4 criminali che fanno una rapina in banca, che poi insomma non va a finire molto bene. Ci sono dei finti carabinieri che catturano uno di questi rapinatori. Ma la cosa abbastanza divertente è che parallelamente alle vicende di questi criminali si segue la vicenda di alcuni alti funzionari di Stato che organizza un piano che si chiama Anno Zero per eliminare il problema delle pensioni. Sai come lo vogliono eliminare? Ho paura di saperlo. Uccidendo i pensionati. Ma giustamente, alla radice. Alla radice, quindi cioè, è un romanzo abbastanza, appunto, giallo ma anche surreale. Alessandra, ma visto che ci hai consigliato 2 libri piuttosto così tosti, che cosa vogliamo così suggerire dopo? Magari qualcosa di... Meno paoroso. Un romanzo di parecchio tempo fa, abbiamo visto il Manzini ripubblicato, in questo caso probabilmente verrà anche ripubblicato, ma il romanzo è del 2006, si intitola Mal di Pietre di Milena Agus, pubblicato all'epoca da Nottetempo. Perché ne stiamo parlando? Perché esce nelle sale italiane il film tratto appunto dal libro Mal di Pietre, ma su questo, come dire, io non so quasi nulla, diciamo. Tanto che... non è un film italiano, un film Francia-Belgio come produzione, con, vabbè, basta dire Marion Cotillard, che caspita, è una delle attrici del momento. C'è Louis Garrel, anche lui insomma piace tantissimo, ed è diretto dalla regista Nicole Garcia, quindi libro italiano ma film internazionale. Assolutamente, lei tra l'altro, Milena Gauss, è una scrittrice molto amata in Francia, proprio Mal di Pietre ebbe un successo incredibile in Francia appunto nel 2006-2007, e io me lo ricordo come un libro veramente bello bello bello. C'è una donna praticamente che, di cui seguiamo le sue vicende sentimentali, il suo matrimonio e la storia con il suo amante, cioè il reduce, che è un uomo incontrato alle terme dove entrambi si trovavano per curare i calcoli renali, da qui il titolo Mal di Pietre. E il romanzo è raccontato con la voce della nipote, tant'è vero che l'incipit dice: nonna conobbe il reduce nell'autunno del 1950, arrivava da Cagliari per la prima volta in continente, doveva compiere 40 anni senza bambini perché su mali dei Sperdas glieli faceva sempre abortire nei primi mesi. Su mali dei Sperdas è appunto il mal di pietre, i calcoli renali. Quindi da qui seguiamo questa storia appassionante di passione. I libri di Milena Gauss sono sempre molto Mi piace. Tra l'altro devo dire, non essendo un librone grosso grosso, va bene per uno di questi weekend lunghi che abbiamo, i sì, ponti. Ma poi credo che ci sarà, io ce l'avevo nella prima diciamo edizione, ma ci sarà anche in edizione economica probabilmente, quindi quando si dice il libro low cost, questo è decisamente low cost. Abbiamo ancora tempo per un ultimo consiglio, cosa ci propone Alessandra? Un consiglio al volo, Le notti blu di Chiara Marchelli, pubblicato da Giulio Perrone Editore, tra l'altro è uno dei libri candidati al premio Strega, adesso c'è ancora tutta la candidatura di tantissimi, poi si arriverà alla scrematura finale. Una coppia di mezz'età italiana, Larissa e Michele, che ormai vive a New York, il figlio Mirko purtroppo si è suicidato. E che cosa racconta questo libro? Beh, racconta di un giorno in cui la vedova di Mirko, di questo giovane, chiama appunto Larissa e Michele, telefona a Larissa e Michele per dire che ha ricevuto una richiesta di riconoscimento di paternità per un bambino di 8 anni. Quindi insomma si pensa che questo bambino di 8 anni possa essere figlio di Mirko, che nel frattempo si era suicidato. Quindi tutto il libro è chiaramente su, cerchiamo di capire qual è stata la vera vita di Mirko, e che noi genitori e la stessa moglie non conoscevano. Intenso. Alessandra, no, avevo detto che era l'ultimo consiglio, era il penultimo, perché come sempre l'ultimo è quello del cacciatore di libri. Andate sul podcast radio24.it, così lo ascoltate quando volete. Grazie Alessandra, al prossimo sabato. Baci. Lipstick junkie debunked the all in one. She came back wearing a smile. I Red Hot Chili Peppers. Ma perché i Red Hot Chili Peppers? Questa era The Adventures of Rain Dance Maggie, che era tratta dall'album I'm With You. E chi aveva realizzato l'album I'm With You? Damien Hirst. Allora, Treasure from the Wreck of the Unbelievable, tesori dal naufragio dell'incredibile, è il titolo della mostra appunto di Damien Hirst, che apre domani fino al 3 dicembre prossimo negli spazi di Punta della Dogana di Palazzo Grassi. Le due sedi di Punta della Dogana, fatemelo dire bene, e di Palazzo Grassi, le due sedi veneziane della collezione Pinot. L'esposizione è curata da Elena Geona e l'ha intervistata per noi la nostra Roberta Pellegatta. Vuole lasciarci meravigliare, vuole provocare delle domande nel nostro immaginario. La linea tra finzione e realtà è sempre molto così aleatoria, e in questo suo nuovo grandissimo importante progetto lui desidera proprio utilizzare il passato, la mitologia, per parlarci del presente e del futuro. Ecco, di sicuro torna al passato, in chiave postmoderna. Esattamente, in chiave postmoderna, perché ci parla del futuro. Non soltanto postmoderna, perché la sua reinterpretazione della mitologia è più che postmoderna, è visionaria. In tutto questo il mare cosa fa? Decora e arricchisce le opere umane? Il mare fa parte della natura, fa parte dei soggetti, diciamo, cari all'artista da tanto tempo. Il mare ha inghiottito questi tesori per 2000 anni e adesso li stiamo riportando e ripulendo e presentando nuovamente al mondo. Quindi il mare fa parte della nostra vita e fa parte della vita dell'artista da sempre. Si può pensare ad esempio a uno dei primi cabinet che lui aveva fatto, che è presentato alla Tate Britain ed è tutto di conchiglie. I coralli sono veri? Deve pensarci lei, questa è la domanda che l'artista ci pone. Ed è proprio qua, è vero o non è vero? La realtà qual è? Grazie Roberta Pellegatta per questa intervista e per aver visto per prima questa fantastica mostra di Damien Hirst a Punta della Dogana e Palazzo Grassi. Noi ci ritroviamo tra poco perché dobbiamo parlare di consumi. Il sabato del villaggio. State con noi fino alla fine del sabato del villaggio, anzi fino alla fine di RadioTube, perché abbiamo degli ospiti pazzeschi. Con noi tra poco il grande, grandissimo ritorno di Mario Venuti e poi sul fronte degli youtuber due grandissimi nomi per quanto riguarda i ragazzi, ci saranno Matt e Bise. Ma insomma, tutto questo tra poco perché prima dobbiamo aprire la pagina dei consumi. Che Maria Luisa Pezzali voglia parlarci di viaggi. Sarà così, Maria Luisa? Ebbene sì, ciao Marta, un buona saluto giornata. A tutti. Anzi, ormai buonasera quasi a quest'ora. Beh, parliamo di viaggi perché siamo in primavera, è tempo di ponti, ma anche di weekend, di piccole vacanzine da ritagliarsi qua e là, oppure anche, perché no, di programmazione già per le vacanze di quest'estate. Allora ho trovato molto interessante questo studio di Skyscanner sul momento migliore per prenotare un volo al prezzo più basso, quindi un'ottima dritta. Skyscanner è un motore di ricerca viaggi globale, ogni anno cosa fa? Analizza i dati sui voli dall'Italia prenotati attraverso il proprio sito per individuare appunto il momento migliore per prenotare e anche i mesi più convenienti per prenotare, per volare. Sono consigli molto utili che allora rubiamo da Alessio Mancarella, Growth Manager di Skyscanner. Buon pomeriggio Alessio. Buon pomeriggio Maria Luisa, buon pomeriggio Marta da una soleggiata Edimburgo. Oh, che meraviglia! Ecco, ad esempio io un biglietto per Edimburgo lo comprerei subito, così facendo una parentesi. Beh, adesso allora ci facciamo dare tutte le dritte. Alessio, le indicazioni variano a seconda che si tratti di un volo nazionale oppure internazionale, così? È proprio così, in particolare per i voli nazionali più o meno siamo a un mese prima e questo è il momento migliore per prenotare un volo, 5 settimane per la precisione. Il tempo si allunga all'allontanarsi della destinazione, quindi per esempio per l'Europa si tratta di, si arriva fino a 23 settimane, quindi 5 mesi e mezzo prima del viaggio, ma c'è anche un altro momento, 10 settimane prima del viaggio, in cui i voli normalmente costano il 5% in meno della media. Per i voli di lungo raggio invece il momento migliore, quindi parliamo di Asia e delle Americhe, è 6 mesi prima del viaggio, per risparmiare dal 4 al 7% in media rispetto alla destinazione, chiaramente. Ecco, facciamo qualche esempio di destinazione. Assolutamente. Prendiamo per esempio una destinazione nazionale. Per Milano-Catania, 24 settimane prima del viaggio, si riesce a risparmiare il 15% rispetto alla media dei prezzi. Poi ci sono delle eccezioni. Per esempio Roma-Atene è una tratta che permette di risparmiare il 16% anche prenotando 4 settimane prima del viaggio. Per Bologna-New York invece sono sufficienti 17 settimane, quindi 4 mesi prima del viaggio, e si arriva a risparmiare anche il 17%. Ecco, tenete conto che si tratta di risparmi rispetto al prezzo medio, non rispetto al prezzo più alto dell'anno. Quindi per voli di lungo raggio questo significa risparmiare diverse decine, a volte anche centinaia di euro. Ecco, voi per così consigliare i viaggiatori sia sull'anticipo per la prenotazione, sia sui mesi più convenienti, insomma, da scegliere per volare, avete messo a punto proprio uno strumento, una piattaforma. Sì, è un tool che si chiama Quando prenotare un volo al prezzo più basso. Il titolo racconta proprio la sua funzione, è molto semplice, lo trovate sull'home page di Skyscanner, ed è uno strumento che abbiamo creato analizzando 2 anni di dati di prenotazione dei viaggiatori su Skyscanner. Questo ci ha permesso di creare dei grafici interattivi attraverso i quali gli utenti possono selezionare un aeroporto di partenza, e abbiamo tutti i principali italiani, quindi Milano, Roma, Napoli, ma anche Pisa, Cagliari, Torino, verso le destinazioni più popolari. Si va da Amsterdam, Berlino, Ibiza e poi destinazioni come anche L'Avana o Bangkok. Stavo leggendo, insomma, per viaggiare in Europa il mese in cui i voli costano meno è novembre, e quindi beh, insomma, lo possiamo immaginare. Però scrivete che per volare in Asia vanno bene maggio e giugno, quindi buona, direi che se vogliamo fare una fuga nei prossimi 2 mesi, l'Asia potrebbe essere una meta. E i consigli, per esempio, se partite da Milano, il 15% di risparmio lo si ha proprio a maggio, quindi insomma un buon periodo per viaggiare. I consigli generali comunque che voi date, Alessio, quali sono? I consigli generali sono quelli di partire nei mesi ponte tra le stagioni. È vero quello che dicevate, per esempio febbraio è un mese ricorrente per risparmiare, ma anche novembre, e poi quelli a ridosso della primavera, maggio per l'Europa, anche giugno per l'Asia. Questi sono i mesi che non sono quelli più caldi, in cui i prezzi crescono. Sono chiaramente informazioni che variano rispetto alle rotte, quindi invitiamo sempre i viaggiatori a guardare la tratta che è quella verso cui vogliono viaggiare. E poi Skyscanner dà anche altri strumenti che permettono di raffinare la ricerca, per esempio gli avvisi di prezzo, che sono uno strumento che permette via app di ricevere una notifica, oppure attraverso il sito web via email, che dà una sorta di monitoraggio rispetto a quando i prezzi per uno specifico per una specifica meta, una specifica destinazione crescono o si abbassano. Questo permette di creare i propri grafici mentali e farsi l'occhio su quando è il momento migliore. Beh, insomma, Marta, lo abbiamo detto tante volte, il consumatore informato è il consumatore vincente, diciamo così, e cerchiamo di dare tutti gli strumenti, e questo era uno. Il consumatore e il viaggiatore. Esatto. Grazie ad Alessio Mancarella per essere stato con noi. Di nulla, buon pomeriggio. E adesso però, Luisa, è il momento di andare a sentire quali sono le chicche di Cristina Lazzati anche per questa settimana. Ciao Cristina. Ciao a tutti. Allora, cosa hai scoperto per noi per questo sabato? Allora, ho scoperto che gli italiani stanno più o meno inconsapevolmente sostenendo quella che si chiama economia circolare. Che cos'è l'economia circolare? Qualcosa di oltre addirittura la sharing economy, che già è l'economia della condivisione. Circolare perché invece di buttare si rivende. Di fatto, una volta era un po' meno, come dire, un po' meno chic parlarne, ed era semplicemente la compravendita dell'usato. Però, mentre in passato aveva praticamente due vie: o non lo raccontavi a nessuno che l'hai comprato usato e ti diceva ah che bello, dove l'hai preso, zitta, me l'hanno regalato, e oppure semplicemente era la questione delle auto, che continuano a essere comunque più grande parte di questo mercato dell'usato, che pensate vale ben l'1,1% del PIL. A raccontarci come gli italiani comprano e vendono è una ricerca di Doxa che ha fatto per Subito. Subito.it è di fatto il più grande portale di compravendita dell'usato, di scambi, eccetera, che abbiamo oggi in Italia. E quindi siamo andati un po' a vedere come gli italiani si rapportano e perché vanno a comprare l'usato. La cosa interessante è che stanno aumentando anche quelli che dicono che ci proveranno, così come aumentano quelli che lo fanno almeno una volta al mese. Perché comprano usato? Beh, il 38% dice che così può levarsi un capriccio, comprare una cosa che magari nuova sarebbe da pensarci su, invece usata probabilmente a un decimo del prezzo che ha, e in fondo uno se la può anche dire ma sì, facciamo la pazzia. Per questa spesa lo faccio. Esatto, poi c'è ovviamente tutto il mondo 2.0, dai videogiochi al telefonino che magari non è da buttare ma è semplicemente invecchiato rispetto magari all'utilizzatore che vuole sempre l'ultimo modello. Qui ovviamente navigano la grande millennials che già comprano e vendono di tutto online, e ovviamente questo è un mercato, non dico loro ma quasi. Poi aumentano gli smart chic, che sarebbero poi quelli che vanno invece a cercarsi il vintage, no? Perché quando l'usato diventa vintage, uno costa di più, due, allora a quel punto lo puoi dichiarare, soprattutto se parliamo, non so, di Grift, borsette firmate, cioè se cercate una Kelly di Hermès sull'usato, beh, non chiamatela usato perché tanto 10.000 ve li chiedono comunque. Sì, quindi confermo. Meglio chiamarla vintage. Sì. Perché a quel punto diventano pezzi unici. Poi c'è un 10% di ideologici, cioè quelli che coscientemente sanno che stanno, come dire, fondando, lavorando a un'economia circolare, quindi ambientalisti, insomma, tutti coloro che sono convinti che meno pattume creiamo e più riusciamo a far vivere un oggetto, meglio facciamo noi stessi al pianeta. Di fatto la media, secondo questa ricerca, che gli italiani guadagnano o risparmiano, è circa di 900 euro l'anno, che comunque non è male, insomma. Ma certo. E che cosa comprano? Allora, punto uno, vabbè, se facciamo conto che vale più o meno sul 7,1 miliardi di euro, 5 vanno tutti in automobili. Poi il resto seguono casa e persona, elettronica e sport e hobby, cioè pensiamo agli sci, gli scarponi. Poi c'è tutto un mondo bambino che ovviamente gira sull'usato, che di fatto sappiamo tutti, chiunque ha figli o nipoti sa benissimo che il seggiolino dell'auto da 0 a 6 mesi dura per l'appunto 6 mesi, dopodiché lo devi cambiare ed è praticamente nuovo, perché poi non è che i neonati li scarrozzi dalla mattina alla sera tutti i giorni. Quindi ecco, c'è anche un mercato di questo genere che grazie a Dio fa girare le cose invece che continuare a comprare. Poi la maggior parte di queste cose poi vengono buttate, ma non tanto perché sono sciupate, tanto perché ormai le case sono sempre più piccole, esatto, non servono più, non si sa dove metterle. Grazie a Cristina Lazzati, l'appuntamento per il prossimo sabato ancora con il Sabato del Villaggio. Grazie Cristina. Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti. Maria Luisa, invece, l'appuntamento con Essere Avere è per domani alle 22 come sempre. Ciao e Marta. Al prossimo sabato, ciao Luisa. Per il tuo vino scegli il meglio, Colombin, tappi in sughero, fidati di un esperto. Vi presenta Il Sabato del Villaggio. È la tentazione di un'eterna novità, e lasciare che la cura sia la musica. La vita è così lunga da passare, ma troppo breve per disperderla. E ho la sensazione di una nuova libertà, e a pensare che il corpo guida l'anima. La notte sta planando con dolcezza, la cassa batte come il cuore fa. Ballare, è la canzone che mi fa ballare di più in assoluto in questo periodo. E non è poco, perché è solo aprile. Di solito ci si comincia a lasciare andare un po' più avanti, quando la primavera è un po' più inoltrata, quando è arrivata l'estate. Invece ha deciso di farci ballare subito Mario Venuti. Ciao Mario! Ciao a tutti! Ti posso chiedere intanto perché? Cioè, non è scontato dire ragazzi, io esco con un disco che vi vuole far liberare, ballare, anche tu nel video lo fai per primo. Perché? Beh, penso che sia una cosa che deve avere il suo spazio nella nostra vita. il lavoro, le cose, le questioni importanti, per carità, e l'attenzione ai problemi del mondo, legittimo. Sì, diciamo che in questi giorni ce ne sono tutto. Parecchi, però diciamo che ci sono delle cose che reclamano la loro attenzione. Bisogna pur che il corpo esulti, che cantava Leo Ferré, poi cantò anche Patti Pravo nella canzone dei Vecchi Amanti. Sì, il ballo può essere catartico, ci sono dei momenti in cui il corpo lo richiede, e poi nella civiltà è stata una delle primissime scoperte dell'uomo. La musica, la danza sono state una delle primissime espressioni dell'uomo. Pensa che l'agricoltura è stata scoperta molti secoli dopo, quindi fantastico. Anche un bisogno primario come quello quindi di coltivare dei prodotti e la terra per il sostentamento è una conquista di gran lunga successiva a quella dell'espressione musicale e dell'espressione del corpo. Quindi, a proposito di corpo, Mario, questo disco è estremamente fisico, perché già dalla copertina ci sei tu, insomma, sembri una statua, anche nelle foto, dentro il booklet. Dico a bassa voce, un figo pazzesco, ve lo dico, un figo atomico. Vabbè, non è soltanto narcisismo. No, però effettivamente fa capire che la fisicità è importante in questo disco. Sì, ho voluto riscoprire una dimensione più terrena, carnale, sensoriale, sensuale. Perché penso che deve avere il suo spazio importante nella nostra vita. Ci sono anche c'è anche l'elemento gusto, che nella canzone Conservare il luogo fresco, che apre il disco, decontestualizzando l'avvertenza che solitamente troviamo sui prodotti, quindi conservare il luogo fresco e asciutto, sì. No? Allora questo diventa un monito, traslando la cosa nel rapporto a due, un monito a conservare, a preservare nel modo giusto anche i lati importanti, no? Cioè l'attrazione fisica, quindi saper risvegliare il desiderio, come dico in una strofa, io voglio essere più commestibile, invoco, cioè voglio essere più commestibile, quindi anche questo desiderio di mangiarsi l'un l'altro, insomma si gioca un pochettino anche con un'ironia anche un po' quasi battistiana, no? Io non capisco da questo disco come vedi il mondo, se sei ottimista e quindi in questa gioia appunto sensuale, oppure se sei un po' preoccupato, ti interroghi un po' su come sta cambiando questo il mondo, no? A volte penso che la realtà imiti la pornografia, cioè tu come lo vedi il mondo? Beh, la vera pornografia è la guerra. Ci lamentiamo dell'Europa, quello che fa, però non dimentichiamoci che noi in questo continente sono 60 anni che non vediamo una guerra. Certo. È una grande conquista e ce ne dobbiamo rendere conto proprio quando vediamo una barbarie così che si manifesta purtroppo spesso in giro per il mondo. Il tramonto dell'Occidente 3 anni fa, se non sbaglio, era un disco un po' più metafisico, filosofico. Hai detto che è una reazione a quello? Quella cosa è stata messa nel suo... come dire, nel suo spazio dedicato, cioè è una cosa che avevo la necessità di prendere di petto, di cantare, anche con la dovuta ironia, perché in fondo in quel disco c'è appunto un'ironia un po' battiatesca, si gioca un pochettino, certo. Tra il serio, c'è anche questa, a volte questa distonia, no? Anche tra la musica gioiosa, giocosa, magari un po' un elettropop così scanzonato, però il testo picchia duro, no? Ha un sarcasmo feroce, e allora questo effetto distonico tra la musica e il testo è un effetto un po' straniante, però sempre molto efficace. Il maestro Battiato lo conosce benissimo. Allora si chiamava anche postmodern, allora anche questo, certo, modo di giocare, certo, con il colto, vero. Cultura alta, cultura bassa, mischiata in maniera con dei pastiche letterari così anche un po' ironici. E quello è stato un bel gioco. Poi è avvenuto con la complicità di Francesco Bianconi dei Baustelle, che è molto bravo in queste cose. Sappiamo che è una penna raffinatissima. Ci citi sempre dei nomi da niente con cui collabori, proprio gente così, no? Bello. Però è strano che anche Francesco e i Baustelle abbiano sentito la necessità come me di fare un disco pop. Infatti, allora, L'amore e la violenza è un disco. Ti dirò di più. Tu hai io poi ho questo vizio di leggermi tutte le interviste concesse nei giorni precedenti, nei periodi precedenti. Tu hai definito il tuo album, il tuo motore di vita, un disco orgogliosamente pop. E invece Bianconi diceva oscenamente pop. Avete cambiato avverbio, però evidentemente nell'aria sentite quella cosa lì. Sì, ma perché entrambi siamo siamo appassionati della forma canzone, del pop, che poi voglio dire, pop significa Beatles, significa David Bowie, cioè mica significa... No, io sono, figurati, sono d'accordo con te, anzi perché poi il pop è lo spirito del tempo. Esatto, è la comunicazione veloce in forma di canzone che è nata negli anni 50 e che ancora è un linguaggio efficace e valido. Ti chiederai mille altre cose, ma il tempo è veramente poco. Allora ti chiedo dei live, perché si parte? Sì, facciamo un pugno di date così di antipasto, quasi degli showcase per presentare il nuovo lavoro, che naturalmente insomma, è presente in circa 9 canzoni su 12 presenti sul disco, i miei classici Irrinunciabili, e poi una serie di chicche che sono andato a ripescare nella mia discografia, che oramai comincia ad essere abbastanza folta, per cui insomma in 10 album andare a scegliere le canzoni per fare una scaletta diventa un'impresa sempre più difficile. Infatti al momento anche sono 28... come me ognuno avrà le sue canzoni del cuore e io mi aspetterei un paio di canzoni magari che non sono nel cuore degli altri, ognuno ha le sue. Sì, comunque al momento sono 28 canzoni, sono, al momento sono 28 canzoni di scaletta, che forse sono un po' troppe. Cioè 28 però magari... canzoni l'hai definito uno showcase, sì. Una robina. Sì, diventa 2 ore buone di spettacolo, però magari insomma mi convinceranno a tagliarne via qualcuna e alla fine insomma rimarrà si metterà a punto una scaletta ben rodata che funzioni anche non solo come canzoni ma anche come tempistica, insomma sia il giusto e non stancare ma anche lasciare un po' di fame. E come mai potrebbe stancarci Mario Venuti? Però questa cosa della fame è ancora così un po' fisica, mi piace molto, mi piace davvero un sacco questo album bellissimo, Motore di Vita. Grazie per essere stato con noi Mario. Grazie. Mario Venuti, ciao. Ballare, ballare, ballare, ballare, ballare, ballare, ballare, ballare, ballare. Io adoro questo pezzo di Mario Venuti. Allora, non è l'unico grande ospite di questo Sabato del Villaggio, allora diciamo non è l'unico grande ospite di questo sabato, perché chiudiamo qui il Sabato del Villaggio. Tra poco ci rivediamo, ci risentiamo con RadioTube dopo il GR24 delle 17, ancora un sacco di ospiti incredibili, parleremo di una grande inchiesta del Sole 24 Ore e poi avremo Matte Bise, youtuber davvero numero uno. A tra poco!